piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. È noto a tutti che stiamo passando un momento difficile nel nostro paese. Oltre alle notizie non controllate, alle paure, alle angosce, ci sono delle circostanze che ogni giorno, ogni momento compromettono il normale fluire della nostra esistenza, dei nostri impegni quotidiani. Io sono qui questa mattina a farmi carico di un'altra difficoltà, che questa mattina in qualche maniera compromette o rende più difficile il mio impegno quotidiano al microfono di questa trasmissione. Non sempre è possibile fare quello che si vorrebbe, soprattutto non è possibile quando improvvisamente si sa che, nonostante tutte le altre difficoltà che già sono date dai ritardi, dalla paura, dalle epidemie, dalla promiscuità, io oggi dovevo andare a Milano da Roma. Già mi era stato sconsigliato, ma non voglio dare ascolto a chi mi dice che ci sono delle zone infrequentabili. Andrò a Milano, ci andrò con mio figlio Tommy, perché con lui dobbiamo lavorare e sapete già di cosa si tratta. Dobbiamo girare il film di cui avete avuto già anticipazione nei podcast Viaggio con Tommy, che più volte ho mandato e lanciato in onda durante le mie trasmissioni. Beh, questa mattina ho delle difficoltà a trovarmi nello studio dove normalmente avrei fatto la trasmissione. Perché? Perché a tutto quello che già sembra rendere difficile la vita si aggiunge un treno che improvvisamente si incendia dalle parti di Firenze, improvvisamente salta tutti i treni, vanno in tilt tutte le ferrovie, improvvisamente io mi trovo con Tommy che ha già delle difficoltà, per lui è molto difficile affrontare situazioni che non sono preordinate e quindi già il treno che non parte, cambiare treno, scendere da un treno, montare in un altro, vedere il clima di angoscia intorno a lui è motivo per me già di grande angustia e grande difficoltà. Quindi ho dovuto fare una scelta e per necessità ho preso immediatamente il primo treno che trovavo per Milano e con Tommy stiamo andando a Milano. Però io devo fare la trasmissione, devo comunque parlare con voi e farvi ascoltare le mie riflessioni, le mie scoperte, le mie curiosità. E lo farò oggi, lo farò seguendo la formula di un'altra trasmissione, la trasmissione che il sabato faccio girando l'Italia dai treni. Mi trovo in treno, ho davanti a me un apparato che mi permette di lasciare la mia voce, trasferire la mia voce a chi mi ascolta. Ho delle persone attorno e sono anche fortunato perché ho delle persone che hanno delle storie da raccontare. E i racconti e le storie di queste persone spero che saranno ben degno supporto alla necessità di dovere comunque ognuno nel suo piccolo fare il possibile perché la vita possa continuare e tutto possa andare avanti lo stesso nonostante le difficoltà. Il tema dell'arte è un tema che mi sta appassionando in questo periodo e questo mi sembra che sia noto. Trovo che l'arte sia la più grande riscossa, la più grande risorsa e la più grande via di fuga proprio nei momenti di difficoltà. E con me ho in treno uno storico dell'arte, è Tiziano Panconi, è un esperto di pittura italiana dell'Ottocento, forse il più grande esperto di Giovanni Boldini. È bello che una persona abbia un suo specifico, una sua passione esasperata e coltivata a punto tale che diventa il più grande esperto in Italia su un pittore dell'Ottocento che disegnava donne bellissime. E intanto comincio a passare la prima parte del mio spazio in treno dedicato agli ascoltatori di Melog assieme a Tiziano Panconi. Tu sei di una famiglia di artisti, mi pare. Io sono una famiglia di antiquari. Poi quando eri piccolo stavi in mezzo alle opere d'arte, quindi. A che modo ci stavi in mezzo? Le vedevo, avevo i quadri a casa appesi, quindi li guardavo. Quindi una casa già era un museo, la casa in sé? Insomma, non proprio un museo, insomma, c'erano diverse opere importanti, quindi le guardavo, le toccavo, le giravo. Cioè, giravo per casa, che avevo i quadri come i bambini c'erano i giochi, insomma. stesso modo. Quindi a casa di un antiquario si parla di oggetti d'arte come si parla di giocattoli. Esatto. Quindi e ti portava mai al negozio? Dove c'avevate un negozio? Come funzionava? Mio padre, mia madre, c'avevano anche mia madre un negozio a Montecatini, è una galleria, quindi andavo da piccolo, stavo lì, stazionavo, giravo, cioè per me sono cresciuto che erano cose ordinarie, diciamo, le opere d'arte. Poi ho cominciato ad avere un rapporto. Ma quando ti facevano un regalo da piccolo, che ti regalavano? No, niente di particolare. Niente, giocattoli normali. Sì, scusa, niente. Banale. Sono io che anzi, cercavano un po' di tenermi anche, se vuoi, un po' distante da questa cosa, però ero io che invece... Ma loro invece miravano a farti entrare nel giro di famiglia. No, assolutamente. Poi hai cominciato a dipingere. Hai ricuotato, valevi? No. Niente. No, sfigato. Quindi non era la tua attività principale. No, io penso sempre di essere un artista mancato, ma è una mia presunzione. Perché sarebbe stata forse la cosa che avrei saputo fare meglio. Ma hai venduto un quadro tuo? Sì, ho venduto qualche cosa. Quanto ci hai fatto? 1.800.000 lire. E quando questo? 92-93. Beh, sì, non proprio quei quadri che vendo, però. No, però quadro, insomma, cioè, sai, un po' così, un po' una vendita, un po' più lo stato. Ma tieni da parte ancora i tuoi quadri? Sì, ho ancora qualcosa. Domani, postumo, può avere un valore, no? Potrebbe essere. Ecco, invece, la tua vocazione qual è? Fare il critico, lo storico dell'arte? Sì, poi mi sono, diciamo... Hai studiato? Sì, ho studiato, mi sono poi appassionato all'argomento e mi sono innamorato, diciamo, prima delle opere d'arte e poi dei libri. Quindi praticamente ho cominciato prima a guardare le opere, quindi andare nei musei, andare alle aste, a avere anche il gusto del possesso, quindi a comprare qualche opera. Però vedi che quello che ti è passato in famiglia non è stato indifferente. No, assolutamente, no. È stato certamente un bagaglio culturale che poi mi sono portato dietro. E poi soprattutto ho sempre avuto un approccio un po' diverso all'opera d'arte, cioè non l'ho mai guardata... come la guarda chiunque, l'ho sempre guardata con un approccio diverso, cioè io ho sempre guardato la materia, cioè ero incuriosito, per esempio da piccolo mi divertivo a rincorrere queste screpolature, no? Con gli occhi che facevano... Ecco, c'è sempre una piccola lente, che è quella cosa lì, ho visto, una lentina piccola d'oro, cos'è? Questa lente è un contafili che io quando posso... Per cosa si usa questo contafili? Ma questo è un contafili che usano le sarte per mettere i fili negli aghi, per vedere la trama dei tessuti. Quindi si appoggia su un dipinto e vedi la trama. E si vede la trama, si vede proprio anche quelle cose che non si notano a occhio nudo, quindi si vede la preparazione nelle parti dove la pittura è un pochino scoperta, si vede lo spessore della materia, si vede piccoli bioccoli di colore, come sono fatte le pennellate, se sono, diciamo, più tirate, più dense, cioè si capisce proprio la struttura più intima della pittura e quindi questo ti aiuta. Quindi c'è una visione... come se tu vedessi al microscopio i quadri, invece che vederli nell'interezza dell'opera, tu entri nel microcosmo del quadro. Esattamente, nella materia. Sono molto interessato a vedere come ha diciamo, realizzato pittoricamente l'artista questo dipinto. E poi c'è un altro aspetto che io fin da ragazzo mi sono sempre divertito a cercare il nero all'interno dei colori, cioè non le parti dipinte di nero, noto bene, ma le parti di colore dove era presente il nero. Allora, adesso devo dire, su di te gira una leggenda nel campo, diciamo. Tu sei molto quotato come persona chiamata a dare delle stime, se un quadro è vero, è finto, è una copia o è una contraffazione. Mi hanno detto, poi dimmi se, ha una sorta di superpotere, lui guarda un quadro e capisce se è vero o falso. Ecco, cosa c'è di vero in questa cosa? Ma allora, non è un superpotere, è un esercizio, diciamo che è una disciplina che si impara giorno per giorno con l'esperienza, quindi si impara a analizzare l'opera sotto tantissimi punti di vista. Ma a che fa con questa tua capacità di vedere il nero nei quadri? Questo? Ma sicuramente è un metodo personale che quando poi te diciamo, cerchi il nero, automaticamente cerchi anche il non nero, cioè dici in questo colore non c'è il nero, per esempio il nero si utilizzavano i pittori per abbassare un pochino le tonalità di certi colori, per esempio il blu, no? E quindi c'è chi lo usava, c'è chi non lo usava, quindi cercando il nero poi studi anche gli altri colori per capire, ma è un esercizio che mi viene in automatico, poi non è un esercizio che si fa. Cioè fammi capire, un artista, tu sai la percentuale di nero che usa per quel tipo di colore? Più o meno sì. Il falsario non farà mai la stessa cosa. Il falsario, il falsario arriva a fare una cosa apparentemente uguale, ma ci arriva per un altro percorso con un altro procedimento. Magari cioè, lo opacizza con degli altri. Gli artisti solitamente utilizzano i colori primari che mischiano fra loro per ottenere certe tonalità. Ecco, si può arrivare allo stesso colore per ottenere lo stesso colore in modi completamente diversi. E quindi ognuno c'ha il suo. E io capisco quando c'è una certa presenza di nero, l'avverto, ma è una cosa ormai ormai che va in automatico, e quindi il mio occhio non soltanto analizza, fa un'analisi normale, ordinaria di quelle che sono tutte le caratteristiche, sia stilistiche, sia proprio della materia del dipinto, ma vado anche alla ricerca inconsciamente di questo nero, qui c'è nero, qui non c'è nero, qui c'è nero, qui c'è nero, e mi faccio tutta la mappa, diciamo, del dipinto. E quindi questo è un modo, cioè è un espediente sostanzialmente che ti aiuta, perché hai qualcosa da cercare, mentre con cui cerchi poi trovi anche altro. Perché vabbè, poi... come un po' Rabdomante sente l'acqua, come un naso sente le essenze più profonde che nessuno avverte. Tu hai questo occhio che vede il nero diversamente, sì, dagli altri. Tieni presente che il nero si può vedere, cioè ti rendi conto perfettamente in un dipinto quando c'è il nero, perché comunque ha una tonalità particolare, diventa il colore un pochino più freddo rispetto alle tonalità più calde. Però nella miscela del nero, io vedo il nero se uno dipinge una cosa nera e non vedo la percentuale di nero in un colore. Sì, tieni presente che per esempio anni fa avevo un'ottima vista e vedevo tutto anche senza lente. Adesso ho bisogno di mettere una lente sopra il quadro, venendo un pochino meno la vista, per vedere proprio, diciamo, la pennellata, la tessitura pittorica. A volte poi non lo vedo, cioè non è che sempre, però in linea di massima questa ricerca del nero mi aiuta, perché comunque faccio una scannerizzazione completa dell'opera. Chiaramente si parte dalle mani, dagli occhi. C'è la scansione naturale. Cioè, il tuo occhio è uno scanner, è un superpotere. Ma sì, diciamo, è più che un superpotere, è un potere che si acquisisce con la forza dell'esperienza. Quindi è un potere comune a tutte le persone che fanno il mio mestiere, alle storici dell'arte, a quelli. Sono come se tu ti fai vedere il cervello, ti dicono: guarda, lei ha nel suo cervello qualcosa di strano, che vede come quelli che vedono, come un daltonico, non vede i colori. Una persona ipersensibile sente, chi ha l'orecchio assoluto, ti interpreta la musica che gli altri hanno bisogno di capire meglio. Tu probabilmente hai un potere assoluto nell'individuazione del nero, no? Ma non so, è una sensibilità sicuramente che ho maturato col tempo, che è venuta fuori appunto esercitandomi. Però poi naturalmente non è solo questo un'analisi di per sé sufficiente a sviscerare tutte le problematiche che stanno dietro un dipinto. Poi c'è uno studio molto attento dello stile, dei modi, insomma, dei contenuti, del contesto, addirittura a volte anche del sentimento di un'opera. Per esempio c'è una grossa diatriba in questo momento, già da qualche anno, su un dipinto Leonardo, il Salvatore Mundi, sì. E alcuni critici sostengono che non sia Leonardo perché non ha quel sentimento, non ha quella postura. Ma io credo che sia un dipinto molto molto credibile, dove sicuramente Leonardo ha messo le mani cioè la prova del nero che ti dice riguardo ha partecipato. No, purtroppo il nero lo vedo solo vedendo l'opera, quindi non dalle immagini su. Ah, non l'hai vista e quindi ancora. Non ho mai visto questo dipinto, come non ho mai visto un dipinto di Leonardo potendoci mettere la lente sopra, quindi non ho questa quindi non prova. È acquisito il dato della percentuale di nero di Leonardo. Non ho acquisito il dato. È un po', poi diciamo, chi fa il mio lavoro si serve un po' di un cassetto di immagini che ha nel cervello, no? Quindi immagazzina immagini, quando vede un quadro sovrappone questa ultima immagine all'immagine che aveva acquisito in precedenza. Stai descrivendo una struttura del cervello che è anomala, lo sai, la gente non ragiona così di solito. Se tu incaselli i tuoi ricordi e li visualizzi, hai una sorta di teatro rinascimentale nella testa che non è da tutti. Ma io tra l'altro ho scoperto, insomma, di avere questa diversa sensibilità che si chiama DHD. Ecco, vedi che c'è sotto qualcosa. Quindi diciamo ho pochissima memoria per quello che riguarda le date, per quello che riguarda tutta la vita ordinaria, mentre invece ho una memoria straordinaria per quello che riguarda le immagini, ma solo di dipinti. Io mi ricordo solo dipinti, cioè la mia mente è come se fosse invasa da un repertorio. Quel teatro della memoria da Pico della Mirandola, che loro visualizzavano come fosse in una sorta di teatro tutte. Il tuo cervello automaticamente te le classifica così. Sì, poi ho proprio queste immagini sono a loro volta scomposte, quindi so che un certo pittore fa la mano in un certo modo, fa l'occhio in un certo modo, fa l'incarnato in un certo modo, fa un paesaggio. Tu collazioni, cioè confronti, come se fosse un database. Sì. Tu hai un database interiore ben strutturato, come quando nei film polizieschi si vedono gli identikit che girano tutti i nasi finché non trovi quello giusto. Ecco, la cosa li fai. Una cosa del genere. C'è il cervello. Cioè, a discapito invece delle informazioni ordinarie, perché quando vado ad aprire il cassetto della memoria, quello normale, dove magari cerco una data, quasi sempre non si apre. Senti, ma ti è mai venuto da ridere? Ti fanno vedere un'opera e tu vedi subito che è una patacca bestiale. Cioè, ma guarda che mi fate. Non ti è mai venuto proprio. Quasi tutti i giorni. Sempre. Ti viene da ridere, sì. Sì, abbastanza, cioè mi viene da ridere. Capisco che probabilmente chi mi sottopone quest'opera non ha quella preparazione sufficiente per dirimere a volte le questioni. Ne gira tante di robaccia, sì. Ma sì, diciamo che io vedo tante opere, la maggior parte sono alla fine copie, tratte dal repertorio quindi le opere davvero originali sono pochissime. e spesso chi le ha ha la presunzione o la velleità di avere, o gliel'hanno vendute senza... o gliel'hanno vendute per tali, e quindi poi solitamente purtroppo dagli esperti ci si va dopo e non prima l'acquisto, no? Quindi... Senti, invece una grande emozione, una cosa che hai scoperto, hai visto il tratto di un artista e nessuno lo sapeva, dici guarda l'ho scoperta io, questo accade? Sì, mi è successo diverse volte, per esempio mi occupo di Giovanni Boldini e quindi qualche volta mi è capitato di entrare in qualche collezione privata dove magari c'erano delle opere non firmate. E tu hai visto, quello è un Boldini. Questo è un Boldini, magari anche diciamo guardando poi le espressioni stupefatte dei proprietari che magari non credevano di avere un'opera così importante. E poi alla prova dei fatti poi gliel'hanno attribuito, poi sono state attribuite, sono state esposte in mostre pubbliche, sono state pubblicate, sono stati fatti gli studi, però diciamo che comunque le collezioni private, ma basta sono... che tu lo dica e è data per buona l'attribuzione, o se la fa anche degli studi proprio di tipo tecnico scientifico su un'opera? Ma allora diciamo che esistono anche delle analisi diagnostiche, quindi scientifiche, che possono dare la chimica del colore, sì, la pennellata, ci possono dare approssimativamente una datazione, però l'esame, quello che conta poi è sempre l'esame stilistico, l'esame, cioè l'occhio è comunque l'arma più potente, la lente più potente che esiste in natura, lo scanner più potente, quindi diciamo che prima di tutto un'analisi stilistica della materia, cioè un'analisi che fa una disamina approfondita, che fa diciamo un conoscitore, e qualche volta succede che non ci si trovi d'accordo su un'attribuzione, dove magari c'è uno studioso che magari dice no, questo secondo me non è di quell'artista, oppure quindi qua non c'è una tecnologia che computerizzata, che tu metti un'opera di fronte e la collazioni con le opere dell'autore e si dice se sua o no, non esiste? No, assolutamente no, no, assolutamente no, perché naturalmente sono tutte le copie, cioè ci vuole... Cioè non c'è un algoritmo che ti dice se una cosa è vera o finta? No, no? Bisogna sviluppare una conoscenza particolare di quella materia e una sensibilità particolare che ti aiuti poi, perché la differenza spesso fra una copia, magari sono delle copie anche quasi coeve, cioè fatte quasi nello stesso momento in cui è stata fatta l'opera originale, sono differenze minime che sono percettibili proprio soltanto da chi ha veramente un bagaglio di conoscenze visive specifico, importante, particolareggiato su quell'argomento. Melog. Mentre il mio viaggio tra Roma e Milano prosegue con mezzi sempre più precari, presento un altro dei miei incontri. È un notaio che, oltre a fare il notaio, ha pensato di portare nel suo centro natale, che è Favara in Sicilia, qualcosa che vada oltre il pregiudizio che vede legati posti come Favara soltanto a tristi episodi di cronaca. Lui è Andrea Bartoli, assieme alla moglie Florinda Saieva, ha trasformato con la sua Farm Cultural Park Favara in un centro d'eccellenza, in un luogo in cui si proclama ogni minuto il bello, il piacere per l'arte, il valore dell'estetica. Tu cosa nasci come notaio? Io faccio il notaio. Lo fai ancora il notaio? Fai in tempo? Per forza. Anche se in realtà diciamo due terzi del mio tempo lavorativo è dedicato a fare un cultural park. Beh, dovrai mangiare anche te, quindi devi fare il notaio. Devo mangiare e devo far sì che quel progetto possa andare avanti. E come ti è venuta l'idea di cultural park? Ci è venuta perché con Flo a un certo punto della nostra vita dovevamo decidere, come tutte le coppie, dove costruire... Flo è tua moglie, Florinda, sì, Saieva. Dove costruire il nostro progetto di vita. Che è un avvocato. Lei sì, è un giurista pure, un difensore del vincolo ecclesiastico. Sembra importantissimo, non ne potremo mai fare a meno. Assolutamente. Del vincolo ecclesiastico. Beh, però vi conoscevate in un ambiente giuridico, immagino. Sì, in realtà ci siamo conosciuti. Eravate affini come studi, come sensibilità professionale più o meno, no? Sì, però ecco, Flo era di Favara e noi avevamo affittato una casa a Parigi, facevamo avanti e indietro dalla Francia e... Noi ci dicevamo che stavamo studiando, in realtà non stavamo facendo nessun corso né universitario né master. Cioè le famiglie dicevate che studiavate? Ce lo dicevamo tra di noi. Ah, così, per darvi una motivazione che sì, andavate a Parigi. In realtà è vero, no? In fondo tutto quello che è venuto dopo è nato anche perché abbiamo fatto questo percorso di esperienza. Però quando Carla stava per compiere 2 anni e mezzo dovevamo decidere o Parigi, c'è l'asilo, la bambina si deve, certo, in qualche modo... E invece abbiamo deciso di restare e ritornare a Favara. Quindi, scusa, il territorio della fuga alla fine era Favara, non era Parigi? Beh sì, siamo la vera fuga l'hai fatta, siamo scappati l'hai fatta da lì. Parigi e siamo ritornati da, in Sicilia, a casa nostra, vicino agli affetti più cari, la famiglia di Flo, è un po' la nostra comunità. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre forze. E come è cominciato? È cominciato condividendo tutto quello che avevamo, quindi tempo, denaro, passioni, questa passione per il contemporaneo, l'arte in una prima fase in maniera più forte, oggi l'architettura, il design, ma sempre al servizio del progetto di riscatto di una città che per tanto tempo era stata associata alla mafia, all'abusivismo, ai latitanti, e oggi invece è diventata una città dell'arte, dei giovani, della sperimentazione. Beh, ti riconosco in questo, mi sento affratellato, scusami il termine che è anche ambiguo, perché di questi tempi non bisognerebbe manco nominare, però nel senso che vedi, anche tu parti da uno stigma forte, che è uno stigma legato al territorio. Io parto da uno stigma, quello legato alle persone come mio figlio, anche come me in parte, l'avere un cervello differente, un punto di vista differente rispetto alla massa. E in realtà sembra che questi problemi sono risolvibili lavorando sui servizi, lavorando sulle necessità principali o sulle infrastrutture. In realtà il doppio salto mortale è cercare il riscatto attraverso una dimensione estetica, che è qualcosa di astratto, che apparentemente non è un valore spendibile. E invece sono convinto fortemente che il diffondere cultura del bello nel senso di cercare qualcosa che non è convenzionale, che trascende rispetto a quello che tu vedi, che bisogna intervenire. Sul bello bisogna intervenire, bisogna far fatica per trasformare ciò che apparentemente è banale in bello. E quindi questo è un cammino folle in cui mi trovo veramente, veramente concorde. E cosa fate esattamente adesso? Diciamo che facciamo tanta roba, abbiamo degli spazi espositivi, ma diciamo le attività più importanti sono quelle legate all'educazione. Abbiamo una scuola di architettura per bambini che si chiama Sou, abbiamo reso omaggio a questo architetto giapponese che si chiama Sou Fujimoto, e qui i nostri bambini fanno veramente qualcosa di straordinario legato alla bellezza, legato alla progettualità. Quello che è l'ambizione di questa scuola è restituire la magia della creatività, insegnare ai nostri bambini quanto sia importante progettare qualcosa per se stessi, ma anche per chi ti sta intorno, nel tuo condominio, nel tuo quartiere, nella tua città, e infine regalare quel sogno di rendere possibile le cose impossibili. Quando noi abbiamo iniziato 10 anni fa, tutti, anche i nostri familiari, ci dicevano: non ce la farete mai, è impossibile portare a Favara dei turisti, è impensabile trasformare questa città in una città d'arte, di cultura. In realtà si sbagliavano. Io ho visto dei dati impressionanti, quanta gente ci viene? Beh, oramai c'è un consolidato, 100-120 mila persone l'anno. Capito. È micidiale. Ma nemmeno se ci mettevi l'icona ad un santo martire. È micidiale, sì. È veramente così, nemmeno se c'erano i miracoli. Senti, tu hai investito, allora, fra quante generazioni si vedranno, cioè fra quanti anni si vedranno i risultati? Questi bambini studiano oggi da architetti, qualcuno di loro lo farà veramente, qualcuno di loro partirà con questa idea che il mondo può essere riprogettato anche nelle sue parti più detestabili. La cosa straordinaria è che, ad esempio, attraverso i bambini stiamo raggiungendo i genitori. Ogni anno, a fine anno, facciamo un viaggio. Il primo anno siamo stati a Parigi siamo stati ospiti appunto di Sou Fujimoto. L'anno scorso siamo stati a Londra e siamo andati da Norman Foster, e i genitori, che non erano abituati a fare questo tipo di viaggi, ora fanno delle rinunce durante l'arco dell'anno, non comprano la borsa, non comprano il paio di scarpe in più le mamme, perché a fine anno devono fare il viaggio con i bambini. E quindi è una cosa veramente straordinaria, quello di esporli alla bellezza, che non è solo la bellezza oggettiva di un bel posto, di una bella architettura, di un bel quadro, di una bella installazione, ma soprattutto di persone belle. Ogni venerdì viene a Favara un architetto, un artista, un filosofo, un musicista che fa lezione ai bambini, e una parte del modulo formativo di 15 minuti è teorico, e poi c'è sempre da realizzare qualcosa con le proprie mani. Beh, tu stai notando il cambiamento di un territorio, come se fosse passata, come tu avessi vaccinato le zolle, la terra, le case, le persone, e improvvisamente sono esenti da una serie di mali. C'è sempre più roba da fare di quanta non ne sia stata fatta, no? Però quando tu arrivi a Favara il cambiamento è tangibile, il cambiamento è legato alla percezione interna e esterna. Le persone hanno riacquistato quel senso di appartenenza a un territorio, perché da Favara non si va più via, di Favara non ci si deve vergognare, e questo secondo me ha un valore enorme. Senti, ti sei posto il problema che il tuo è su un modello che in qualche maniera può essere raccontato e riprodotto da qualche altra parte? In realtà già accade. Vedi. È incredibile quanti collettivi di giovani artisti, attivisti, designer hanno iniziato a trasformare i centri storici abbandonati, le loro periferie, a Grotte, a Castro Filippo, a Mazzara del Vallo, a Caltanissetta, a Catania. Proprio ieri avevamo ospite il console, nuovo console della cultura americana a Favara, e abbiamo invitato tantissime di questi makers, artisti, organizzazioni a raccontarsi in 3 minuti con 3 fotografie. È stata una giornata esplosiva, piena di contenuti, piena di energia, piena di cittadinanza attiva, piena di quello che mi dà fiducia in un futuro differente. Quindi tu hai fatto un format a tutti gli effetti, hai pensato un format? Beh, è un format sempre che si mette in discussione. In realtà abbiamo tante altre cose. Abbiamo questa scuola di politica che si chiama Prime Minister, che facciamo insieme agli amici di Movimenta. L'abbiamo iniziata l'anno scorso a Favara, e quest'anno ci sarà la seconda edizione, la nuova edizione. E come funziona una scuola di politica non legata a un partito? La scuola di politica funziona un po', diciamo, sul modello della scuola di architettura. Una volta al mese invitiamo un ospite importante che il più delle volte donna, ma non solo, e abbiamo avuto Rossella Muroni, abbiamo avuto ospite l'ambasciatore UK in Italia, che è il primo ambasciatore britannico donna, e 15 giorni fa le ragazze di Prime Minister sono venute qui a Roma insieme a Flo e sono state prima al Vaticano, poi all'ambasciata americana, poi all'ambasciata inglese e infine al Parlamento, incontrando in ogni circostanza deputati, ambasciatori, consoli. Quindi un'esperienza veramente irripetibile. Melog. Mi dai qualche consiglio? Ci sono stati mai dei momenti in cui ti sei sentito solo, che dicevi non ce la faccio? Solo, grazie a Dio no, perché c'è mia moglie che... La moglie fa parte del pacchetto, quella non te ne puoi liberare. No, certo. No, però la cosa divertente è che, diciamo, una settimana io, una settimana lei, siamo giù di corde, e allora l'uno tira sull'altro. Non mi parlo, la cerchia un po' esterna, nemmeno i parenti, nemmeno gli amici. Ma sì, cioè, il mondo se ne accorge. Queste sono iniziative che alla fine nascono spontaneamente, non è che hanno sostegno pubblico o altro. Nessuno ti obbligava a fare questo, non avevi nessuno, e l'hai fatto. Ti ha riconosciuto in qualche maniera? C'è qualcuno che dice: oh, guarda, questo è un modello che mi piace? Ci ha assolutamente riconosciuto, contento. Abbiamo tante gratificazioni, una su tutte, te lo dicevo prima, il consolato generale a Napoli, americano. Cioè, un paio di anni fa mi arrivò questa telefonata allo studio: pronto, notaio Bartoli? Sì, sono io. Pensavo, faccio il notaio, pensavo fosse per una procura notarile. In realtà mi iniziano a fare i complimenti per l'attività di Fan Cultural Park, dicendomi che il console voleva fare una visita a Favara. E io inizio a guardarmi intorno pensando che mia moglie mi stesse facendo uno scherzo, fosse una candy camera. Morale della favola, vengono a Favara, continuano a volerci bene, a organizzare degli eventi con noi. A gennaio del 2018 mi portano negli Stati Uniti, mi fanno fare un viaggio straordinario tra Washington, Pittsburgh e Detroit. Fai conto, 15 giorni, un master di 3 anni, ho incontrato l'ambasciatore Phillips, che era l'ambasciatore a Roma di Obama, al sindaco di Washington, che è una donna che ha 35 anni e di colore, a presidenti di organizzazioni che fanno attività similari alle nostre. E questo, insomma, ancora oggi è una cosa che tu dici: ma come è capitato? È capitato perché c'è qualcuno che riconosce il merito, lo promuove e lo sostiene. Beh, alla fine direi ho avuto una bella vita, sono contento, vorrei poterlo dire anch'io, però ancora è tutto condizionato a quello che riuscirò a fare. Ma vedrai che sarà così, cioè quello che ogni tanto proviamo di frustrazione e flow è nel non riuscire a far capire ad amici, a professionisti, a imprenditori che potrebbero fare quello che facciamo noi o molto di più di quello che facciamo noi, e che in realtà quello che ti torna in cambio non è denaro, ma è un arricchimento nella tua vita incredibile. Tu in fondo pensi, io faccio il professionista, faccio il notaio, lo faccio a Riesi, in provincia, ma chi me lo va a dire a me di viaggiare in tutto il mondo a fare conferenze? Tra 15 giorni sarò ad Abu Dhabi, ospite delle Nazioni Unite, a raccontare di fare un cultural park, oppure di lavorare con i più importanti architetti del mondo, oppure di stare sempre in mezzo a creativi, artisti, a gente che in qualche modo pensa e costruisce il domani. Quindi è stato il più bello investimento della tua vita. Assolutamente. Meglio sì. Che vincere la lotteria. Assolutamente sì. Vabbè, questo mi conforta, che io facevo il giornalista, mi occupavo di tante cose, adesso mi occupo in maniera specifica di cervelli ribelli, e speriamo che questo mi riporti qualcosa. Ti voglio raccontare una cosa a proposito di cervelli ribelli, ti piacerà da morire, perché noi stiamo per inaugurare il 21 marzo un'esibizione all'interno di un festival che è stato vincitore di un bando del ministero, il ministero del MIBACT, questa esibizione si chiama City Rebels, storie di ribellione urbana, e raccontiamo le storie di alcune persone veramente straordinarie nella loro vita, hanno avuto la visione, il coraggio, la forza di costruire delle cose inimmaginabili. Tra questi la storia di Giorgio Rosa, che nel 1968 nelle acque extraterritoriali di Rimini costruì questa piattaforma e poi la dichiarò Repubblica Indipendente dell'Isola delle Rose. Peraltro, si era fatto il suo regno. Ho letto che Netflix ci farà un film su questa roba qui. Bellissimo. E praticamente lo Stato italiano dopo 40 giorni andò lì abbattendo la dichiarò piattaforma. Guerra. Dichiarò guerra. E Giorgio Rosa, prima di morire, disse che l'Italia fu l'unica guerra che riuscì a vincere. Sulla sua piattaforma. Sì, contro la sua piattaforma. Ma no, sono contento perché, sai, molte volte la ribellione è legata come qualcosa di sempre di sovversivo e distruttivo. In realtà la ribellione è ribellarsi a il fatto che ci sia una costante maniera di vedere le cose condivisa da tutti. Ogni tanto qualcuno ha avere un'idea diversa, se no il mondo si ferma, se no staremmo ancora nelle caverne a battere i denti dal freddo, se ogni tanto qualcuno non si fosse inventato qualcosa. Ma c'è un tuo collega che è un caro amico che tanti anni fa venne a Favara a presentare il suo libro Cambiamo Tutto, Riccardo Luna. Ah sì, come lo conosco Riccardo, bene. Riccardo dice che l'unica risposta a questo immobilismo è l'innovazione senza permesso, e in fondo è un po' vero, no? Oggi bisogna spingere veramente il cuore oltre l'ostacolo ed essere un po' disobbedienti per riuscire a realizzare le cose, e questa esibizione è tutta dedicata a questi personaggi. Pensa a Antonio Presti. Antonio Presti ha realizzato in Sicilia un parco di sculture monumentali che si chiama Fiumara d'Arte, che ci è invidiato in tutto il mondo, e lo ha fatto in terreni demaniali, in terreni che erano di sua proprietà, in posti bellissimi, beccandosi 25 anni di denunce per abusivismo edilizio, e poi è riuscita a spuntarla finalmente una legge che ha riconosciuto. Nessuno ha avuto il coraggio di poi di distruggerla. Esattamente. Cioè, beh, vedi, bisogna sempre investire sul proprio, sulla propria carne, sul proprio sangue, sulla propria voglia di fare, se no nessuno ti viene a cercare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. Alla prossima. Per il lupo. Grazie.